Quando guardo la tua santità, quando miro il tuo gran splendore, la tua luce mi circonda e le ombre svaniscono. Quale gioia contemplare il tuo cuore, esaltare il tuo amore. La tua luce mi circonda e le ombre svaniscono. Io